in primo piano. Sì, buongiorno, buongiorno a quanti ci ascoltano. La rassegna stampa di oggi, sulle prime pagine, praticamente solo elezioni amministrative, il risultato delle elezioni, una lettura di queste elezioni. Ma potremmo anche cominciare con la Gazzetta dello Sport, cacà adios, addio, occhio a Pato, ecco Zieco. Ecco anche questo un titolo molto per iniziati sportivi, si capisce che cacà lascia il Milan e qualcuno dice che qualcosa nella sconfitta, nell'arretramento di Berlusconi rispetto a quanto si aspettavano, sia dovuto anche al fatto che i milanisti hanno protestato per Kakà. Ma torniamo alle elezioni. I grandi giornali nazionali sottolineano come il voto amministrativo confermi, anzi ribadisca il successo del centrodestra. Le province rilanciano il centrodestra, il titolo della Stampa. Nelle amministrative, netto successo al nord e a Napoli, Bologna resta il centro-sinistra, si va al ballottaggio a Milano, Torino e Firenze. L'amarezza di Berlusconi deluso dalla Sicilia e la campagna elettorale l'ha fatta mia moglie, questa è la Stampa. Il Corriere della Sera, amministrative, netto successo di Popolo delle Libertà e Lega, la maggioranza conquista al primo turno 26 province, vittoria anche a Napoli, polemiche sul risultato delle elezioni europee. La Repubblica, nelle città avanzano Popolo delle Libertà e Lega, il PD tiene al centro in testa a Bologna e Firenze, l'ira del Premier lasciato solo. Il Sole 24 Ore, Nord e Napoli, vince il centrodestra, cambiano colore 14 province e 6 comuni, ballottaggio a Milano, Democratici in testa a Bologna e Firenze. I giornali politici invece hanno dei titoli un po' diversi, iniziamo dalla sinistra divisa e sconfitta che non andrà appunto, non avrà rappresentanti a Strasburgo, Liberazione, giornale comunista, sinistra, il problema oltre il quorum, l'Europa va a destra, nella destra crescono le forze più estreme e xenofobe, è sempre Liberazione in prima pagina, la socialdemocrazia implodono di fronte a una profonda crisi economica e sociale a cui non hanno saputo dare risposte di radicale, credibile cambiamento. In Italia, gelata sull'illusionismo berlusconiano, battuto nei suoi propositi totalitari, col secco arretramento del PD e il ridimensionamento del PDL, tramonta anche il tentativo di ridurre a bipartitismo la democrazia italiana. La sinistra, conclude il sommario di Liberazione, paga il prezzo della scissione e non raggiunge il quorum. Ricostruire dal basso l'opposizione sociale e l'unità. Questo è il programma del partito di Ferrero. Il Manifesto, l'altro giornale della sinistra, ha un titolo Il Provinciale con una foto di un manifesto di Berlusconi strappato e la didascalia spiega il PDL strappa una ventina di province alla sinistra, conquista Umbria e Marche, straripa a Napoli, avanza a Milano, porta Torino al ballottaggio, il vento leghista spazza il Veneto, il PD tiene in Emilia e Toscana ma balla a Firenze, Berlusconi lontano dall'obiettivo di 3 milioni di preferenze in Europa sfonda in provincia, ricordo il titolo del Manifesto, Il Provinciale, e c'è un commento di Rossanda, le sberle del voto, le sberle che sono ovviamente, secondo la Rossanda, quelle che sono andate alla sinistra, che non è riuscita a raggiungere il quorum, al PD che ha incassato uno schiaffone infertogli dallo sceriffo dell'Italia dei Valori, ma anche a Berlusconi che non è riuscito a raggiungere quello che Berlusconi, secondo Rossana Rossanda, sognava, cioè di andare oltre il 40%. Il Riformista ha un titolo invece Silvio Alverde, sfonda solo la Lega, flop del Premier anche nelle preferenze, le provinciali confermano le europee, il carroccio è decisivo per la maggioranza e alzerà il prezzo, l'Italia dei Valori cresce a scapito di Franceschini che però festeggia il pericolo scampato e ha dedicato anche a Berlusconi il titolo di Libero, la delusione del Cavaliere, Silvio ripigliati. E scrive Vittorio Feltri, Berlusconi incupito se ne sta rintanato, l'apoteosi annunciata dai sondaggi non c'è stata, la colpa del Premier che si è un po' interronito a vantaggio di Bossi, speriamo impari la lezione, vedremo più avanti questo commento di Vittorio Feltri. Ma io vorrei chiedere a Ivo Diamanti, che da domani, ricordo, seguirà la rassegna stampa nei prossimi giorni, quali sono secondo lui i temi forti di queste, sono stati i temi forti di queste elezioni? Ma dati forti ce ne sono più di uno, alcuni li abbiamo già indicati ieri ed erano più generali, quindi sostanzialmente da un punto di vista generale il mancato conseguimento dell'obiettivo che aveva il Presidente del Consiglio di imporre se stesso come base di un referendum, questo come dato politico generale. Però ci sono almeno altri due fatti importanti, due elementi importanti, tra gli altri che mi interessano molto, visto le cose di cui mi occupo, e sono da un lato la deterritorializzazione della Lega, ma anche del centro-sinistra, soprattutto il Partito Democratico. Mi spiego. La Lega certo continua a conferma il suo radicamento nel nord, nelle zone dove già era forte, però il suo risultato è dettato più ancora che dal rafforzamento dove già era presente, dall'allargamento della sua presenza altrove, cioè al di là del Po. La Lega non è più né pedemontana né padana, ma sviluppa la sua influenza elettorale, il suo peso elettorale in regioni rosse, nel centro, quindi in Emilia-Romagna, in Emilia stessa, ma poi nelle Marche, anche con una presenza magari limitata anche in Umbria e in Toscana. Dall'altra parte noi assistiamo invece a questo fatto che già alcuni hanno messo in luce, cioè l'indebolimento del centro-sinistra nelle zone rosse, soprattutto il Partito Democratico, che ad esempio non è più il primo partito né in Umbria né nelle Marche. Varrebbe la pena di osservare anche l'evoluzione interna al centro-sinistra. Sappiamo tutti che c'è stata una forte avanzata di Pietro, o meglio dell'Italia dei Valori, e in un indebolimento invece del Partito Democratico, ma proprio questo è un segnale di quanto stavamo osservando, cioè l'Italia dei Valori è un partito per ora poco territorializzato ed è quasi un partito d'opinione, un partito che raccoglie un voto d'opinione sul tema della legalità e di critica di fatto a Berlusconi, ma della legalità in modo specifico, mentre è quindi poco territorializzato, con una bassa presenza e basso radicamento organizzativo. Invece il Partito Democratico è l'erede dei partiti di massa, i DS ma anche i popolari. Ecco, questa mi pare l'effettiva novità che evidentemente si riflette anche sul voto alle amministrative. Ecco, quindi un cambiamento di strategia di fondo oppure un cambiamento dettato solo dall'occasione elettorale e dal clima con cui si è arrivato a questa elezione? Direi che è anche frutto dell'evoluzione politica e organizzativa avvenuta in questi partiti. La Lega in una certa misura mantiene la sua continuità con il passato, è un partito di massa, è un partito presente sul territorio, soprattutto nel nord, ma non solo. Si è, tra virgolette, sviluppata attraverso un messaggio di tipo, accentuando il suo messaggio fondato sulla paura, sulla domanda di protezione, sulla sicurezza, sulla questione, sul tema, sulla paura degli immigrati, sulla chiusura agli immigrati, e in questo caso ha, come dire, deterritorializzato la sua presenza, la sua offerta politica. Non è più il partito del nord, è il partito dell'insicurezza e del timore, tra virgolette, dell'invasione. In questo può raccogliere, ha raccolto consensi nel nord ma anche nelle regioni del centro, come è avvenuto per altri partiti in Europa. Quel che riguarda il Partito Democratico è evidentemente frutto dell'evoluzione politica di questi anni. È un partito contenitore, un partito nato per aggregazione. Noi stiamo assistendo a una questione, a un esito che può di fatto avere delle conseguenze non prevedibili in futuro, cioè, nel senso che da due partiti organizzati su base territoriale ne sta nascendo uno la cui organizzazione su base territoriale si è indebolita. Evidentemente uno più uno non fa due, fa uno e mezzo. Grazie Vodiamanti, l'appuntamento è per domani con la rassegna stampa, lasciamo la linea al traffico. In primo piano. Rieccoci con la rassegna stampa. Vorrei sottolineare in quest'ultima fase tre argomenti principali con cui i quotidiani hanno guardato le elezioni. Da una parte il fattore personale, il fattore della capacità personale di imporsi, dall'altra l'elemento del nord, dall'altra l'Europa. Cominciamo dal fattore personale. È la foto di Deborah Serracchiani sulla prima pagina dell'Unità, Questa ragazza ha battuto Berlusconi, 144.000 preferenze, a Udine batte il premier e diventa il simbolo della voglia di cambiamento. E il direttore dell'unità Concita De Gregorio scrive: a dispetto della formazione della gerarchia delle liste, calibrate secondo il peso politico interno, in moltissimi casi gli elettori hanno premiato volti nuovi, persone capaci della politica sul territorio, candidati incapaci di farsi portatori di decenni di diatribe personali e reciproci rancori. Deborah Serracchiani ne è l'esempio più luminoso. Ha battuto in preferenza il Presidente del Consiglio. Nel PD ha superato il capolista Luigi Berlinguer, il potente segretario del PD Emiliano Caronna. Non è una ragazzina, è un avvocato di quasi 40 anni. Ha una lunga militanza alle spalle, è stata scelta dalla base, ha vinto. L'Italia è piena di Deborah. Simona Caselli ha superato il premier a Parma, Francesca Barracciù lo ha battuto in Sardegna. E così via. E quindi anche questo in parte è un po' di autocritica del PD. Una candidata che non era il primo della lista ha battuto all'interno del PD i capolisti. La politica ha bisogno di volti nuovi, qui ce ne abbiamo un esempio, ed è un esempio certamente positivo. Sul fronte del voto territoriale si sofferma il Sole 24 Ore col commento di Roberto Dadimonte: Popolo della Libertà, la croce del Sud, PD cende il centro. Ricordo tra l'altro che sul Sole 24 Ore ci sono due commenti sulle prospettive dell'Europa di Mario Monti e di Giulio Tremonti. Se gli inglesi diventano tedeschi, è il commento di Mario Monti, non siamo euroscettici ma eurosaggi, quello di Giulio Tremonti. Ma restiamo al commento di Dalimonte, che appunto sottolinea l'effetto territoriale. Il dato politicamente più significativo è che il PD ha aumentato i suoi voti nel nord-est. In questa zona anche la Lega è andata bene, aumentando i suoi consensi di un punto e mezzo. La competizione tra i due partiti c'è, ma quantomeno in questa tornata elettorale nella maggioranza delle province lombarde e venete l'uno non ha sottratto voti all'altro. La stessa cosa non si può dire con certezza per il Piemonte e la Liguria. Qui il Popolo delle Libertà indietreggia e la Lega guadagna addirittura più che nelle regioni del centro. Nella sostanza però l'alleanza PDL-Lega funziona, e funziona meglio di quella PD Italia dei Valori. In questo caso infatti non si può dire che i due partiti abbiano felicemente convissuto. Ci sono pochi dubbi che una buona parte dei voti persi dal PD siano andati al partito di Di Pietro. Va da sé che questa asimmetria nei rapporti tra partiti alleati avrà un peso nell'evoluzione del quadro politico. Roberto Dalimonte sul Sole 24 Ore, sull'analisi appunto del voto territoriale e sul fatto dei rapporti importanti tra le coalizioni, tra Lega e Popolo e Partito delle Libertà e tra Italia dei Valori e Partito Democratico. Sul fatto di come abbia giocato il territorio si sofferma che Vittorio Feltri su Libero, Silvio ripigliati, il titolo che abbiamo letto anche prima, e Vittorio Feltri appunto ricorda quanto detto e ripetuto per mesi: Silvio si è interronito e ciò ha infastidito molta gente del nord che ha ripiegato sulla Lega, cui è attribuita una maggiore sensibilità verso la questione settentrionale. Lo spostamento dei suffragi su Bossi è appena cominciato e minaccerebbe di assumere le dimensioni di una valanga qualora il cavaliere, come temiamo, scrive Vittorio Feltri su Libero, seguitasse a trascurare la sua terra d'origine, evitando di frequentarla per dedicarsi al ponte sullo stretto di Messina, alle feste a Casoria, al trasferimento del Consiglio dei Ministri a Napoli, al foraggiamento di Catania, Palermo e Roma e alla soppressione di Malpensa per favorire Fiumicino. Vittorio Feltri su Libero rimprovera al cavaliere di avere una particolare attenzione per il Mezzogiorno, dimenticando le sue terre di origine, cioè il nord. Ma concludiamo questa panoramica molto veloce sui giornali guardando a alcuni giornali che mettono in rilievo il voto europeo, il voto sull'Europa, ed è Avvenire che titola proprio La nuova Europa riparte dai popolari. C'è anche Repubblica che ha un interessante articolo di Bernardo Valli: la destra keynesiana che batte il socialismo. E su Avvenire si sottolinea che il voto per Strasburgo allarga la forbice tra PPE e socialisti, e Marco Tarquinio osserva: hanno vinto i popolari europei. La tornata elettorale che ci siamo appena lasciati alle spalle si presta a letture diverse, ma ci sembra giusto partire da questa. In un'Europa percorsa da scosse telluriche che sono arrivate sino a Bruxelles e hanno lesionato un po' tutti i palazzi di governo, con l'eccezione di Italia e Francia, per certi versi Germania, salta infatti agli occhi il rafforzamento nei numeri e del ruolo del PPE. Nonostante il massiccio astensionismo e malgrado i risultati inanellati dall'aggruppamento di estrema destra, spesso di preoccupante matrice xenofoba, il rieletto Parlamento di Strasburgo avrà ancora una volta il suo saldo baricentro in quel gruppo moderato e riformatore che laicamente si richiama anche agli ideali del cristianesimo sociale. Marco Tarquinio su Avvenire. E invece Bernardo Valli su Repubblica sottolinea come la destra attuale abbia un po' sposato le tesi socialiste, le tesi keynesiane, le tesi di intervento dello Stato, e anche per questo abbia spiazzato un po' la sinistra con un effetto paradossale. La sinistra socialdemocratica, scrive Bernardo Valli, che ha cominciato la prova dal banco d'accusa, è finita nella gabbia degli sconfitti. Non è semplicemente riuscita a proporsi come alternativa credibile, non essendo ancora adeguata alla nuova situazione mondiale. Una mancanza che ha tolto peso alle sue accuse. Ecco, non abbiamo tempo per sottolineare altri elementi. Anche Adriana Cerrettelli sul Sole 24 Ore dedica il suo commento alla sinistra europea tradita dal suo popolo. Adriana Cerrettelli sarà tra l'altro ospite questo pomeriggio, uno speciale che dedicheremo in particolare alle elezioni di una prospettiva europea e che si condurrò dalle 15 in poi. Alessandro Milan, a te microfono.